Italia in controluce. È il 28 settembre, quella che state ascoltando e comincia ad andare in onda ora è la seconda edizione di Italia in controluce. Vi parla Daniele Biacchessi. Il 9 ottobre Filippo Penati sarà interrogato dai pubblici ministeri di Monza. Filippo Penati, esponente del PD, ex presidente della provincia di Milano. Al centro di questa inchiesta è l'acquisto del 15% di azioni dell'autostrada Milano-Serravalle dal gruppo Gavio. Il reportage di Raffaella Calandra. Strada, un'operazione finanziaria, uno scontro politico bipartisan e ora un intreccio di inchieste. Per chi abita sotto al Duomo, il casello di Serravalle Scrivia sa già un po' di Liguria e di mare. Da un po' di tempo a questa parte, però, la A7 è soprattutto sinonimo di una controversa acquisizione e di un'accusa che dalla provincia meneghina rischia di gettare ombre fin sul Nazareno, sede del PD a Roma. Corre infatti lungo la Milano-Serravalle una delle più spinose vicende contestate state a Filippo Penati, che portò la provincia lombarda sotto la sua guida ad avere, ma ad un prezzo salato, il 52% di quell'autostrada. Quando però provincia e comune insieme già avevano la maggioranza, l'ipotesi è una tangente dietro l'acquisto di quelle quote. Se fossero rilevate queste logiche, io come ex magistrato mi dimetterei immediatamente dal Partito Democratico, me ne andrei. Le logiche che Gerardo D'Ambrosio teme sono quelle dell'affarismo, dice, e anche per questo segue con precisione e preoccupazione tutti gli sviluppi dell'inchiesta di Monza. Il 9 ottobre Filippo Penati si farà ascoltare dai PM e darà la sua versione dei fatti anche sulla Milano-Serravalle, quell'operazione del 2005 che lui rivendica ma che i magistrati considerano sospetta. Un'operazione che fin dall'inizio l'ex capo della Procura di Milano, ora senatore del PD, giudicò strana, tanto da suggerire all'allora sindaco Gabriele Albertini, che l'aveva contattato, di sporgere denuncia. Consigliai proprio ad Albertini di presentare denuncia alla Procura della Repubblica, perché effettivamente sono meccanismi là strani. Quando già si raggiunge la maggioranza col patto di sindacato, non riusciva a capire perché la provincia volesse gestire da solo la Milano-Serravalle. Cioè, è una cosa abbastanza strana. Da quello che mi fu riferito dal sindaco Albertini, capì che era una vicenda abbastanza singolare. Insomma, non si comprano con una differenza di prezzo che era notevole. D'altra parte io mi ero occupato in precedenza del caso Calvi, anche lì c'era stato un acquisto quando c'era un patto di sindacato che dava la maggioranza ed erano state pagate un sacco di soldi di azioni e infatti ci fu un processo. Quindi erano un po' meccanismi che le richiamavano quei meccanismi della vicenda Calvi? No, erano quei meccanismi là, strani. 2,9 euro ad azione aveva pagato Marcellino Gavio, 8,83 invece, per un totale di 240 milioni, ne aveva poi incassati dalla provincia di Milano dopo la vendita del suo 15% dell'autostrada. Ed è in questa differenza, in una sospetta operazione immobiliare, che la Procura di Monza cerca le tracce di una mazzetta che l'imprenditore di Alessandria, re delle autostrade, morto nel 2009, avrebbe pagato a Penati. Inveendo contro lo sperpero di denaro pubblico, all'epoca il sindaco Albertini aveva illustrato le sue perplessità al procuratore Borrelli, al suo predecessore D'Ambrosio, ma anche ad Antonio Di Pietro. Dichiarò esattamente queste parole: siamo davanti a un caso di ingegnerizzazione della corruzione, per molto meno quando ero pubblico ministero spiccavo mandati di cattura, sarà però difficile provare quello che è evidente perché è costruito molto bene. Dietro al neologismo del leader dell'Italia dei Valori c'è stata già un'inchiesta della Corte dei Conti che stimò un danno per lo Stato di 80 milioni e poi un'indagine penale che, quando sembrava viaggiare verso l'archiviazione a Milano, ha ripreso invece forma e sostanza nel fascicolo di Monza. Oltre alle carte e ai bilanci dell'epoca, ora i PM Walter Mapelli e Franca Macchia hanno agli atti anche i racconti di Piero Di Caterina, il titolare dell'azienda di trasporti Caronte, il grande accusatore di Penati. È lui a mettere a verbale di aver ricevuto 2 milioni di euro da Bruno Binasco, manager del gruppo Gavio, quale caparra per l'acquisto di un immobile mai andato in porto. Insomma, per gli inquirenti una finta trattativa nel 2010 che doveva solo mascherare il finanziamento illecito a Penati. Eravamo tesi per le questioni appunto degli equilibri economici che avevamo in ballo. In ballo c'erano più di 2 milioni di euro. Più di 2 milioni di euro, certo, di restituzioni che sarebbero dovute avvenire a mio favore. Lei stesso aveva, diciamo, collegato la possibilità di poter avere o riavere questi soldi in base alla riuscita dell'operazione Serravalle? Io trattavo con loro per la restituzione di queste somme, poi ovviamente ho visto che arrivavano da un soggetto che rappresentava Serravalle. Io ho fatto un'operazione immobiliare che, se si fosse conclusa, sarebbe stata un'operazione immobiliare comunque precisa. Per me lo è precisa anche fino all'aspetto della caparra che mi è stata lasciata. È ovvio che è molto strano che una importante società fa un contratto per comprarsi un immobile e poi abbandoni, insomma. La mia sensazione e preoccupazione di un eventuale ritorno nella condizione di rischio c'è sempre stata, perché stavamo discutendo da anni, voglio dire, non se ne veniva a capo. Le venivano in qualche modo esplicitamente detto quali erano gli ostacoli? Dicevano di non avere quattrini per restituirmeli. Nel momento in cui dice sì, tot, restituisco i soldi, lei capisce che un politico fa insorgere in chi ha di fronte la domanda da dove arrivano, no? E questo era quello che le aveva detto Penati? Sì, sì, poi noi abbiamo parlato di tutte queste cose. La rassicurò sul fatto che avrebbe avuto i soldi? L'assicurò che li avrei avuti, ma non mi ha mai detto esplicitamente arrivano per questo, arrivano per quello. Si è parlato prima dell'operazione, come lei ha visto nei verbali della Serravalle, però si era parlato di tante altre cose prima per risolvere queste questioni che poi non si erano concretizzate. In quello stesso 2005 in cui portò a casa i 240 milioni dalla provincia di Milano, Marcellino Gavio seguiva anche la scalata, poi fallita, di Unipol su BNL. Ed è incrociando questi due elementi che Albertini, ad esempio, torna a puntare il dito contro lo stesso PD. Non ho mai pensato che Penati abbia fatto le operazioni, compresa la Serravalle, dell'importanza, del rilievo, delle dimensioni della stessa come singolo personaggio. Il coinvolgimento dei vertici del partito era stato affermato lo stesso Gavio in una conversazione con un mio assessore, aveva affermato che questa operazione aveva avuto questa benedizione. L'operazione Unipol è contestuale a enorme plusvalenza che viene realizzata dal gruppo Gavio. C'è una intercettazione telefonica tra Gavio e il suo principale collaboratore Bruno Binasco. 50 milioni di questa plusvalenza escono nella cordata Unipol, che certamente non è un'operazione di Penati, è consorte, grande protagonista del mondo cooperativo che segue il caso. Il partito smentisce, l'ex numero uno di Unipol Giovanni Consorte è ancora più categorico. Di fregnacce io in questi anni ne ho sentiti tante, ma come questa veramente non c'è limite. Dunque, il signor Gavio io intanto non lo conoscevo, me l'hanno presentato nella prima decade di luglio, prima non l'avevo mai visto in vita mia. Non credo tra l'altro che Gavio, con gli affidamenti che aveva dalle banche in quel periodo, parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro, avesse bisogno di fare un'operazione per fare delle plusvalenze, per fare l'operazione, non credo proprio. Tra bilanci, verbali e perizie, la Milano Serravalle, dopo essere stata più volte oggetto di scontro tra comune e provincia e con diversi colori politici, ora dunque diventa uno dei pilastri dell'inchiesta di Monza. Filippo Penati si è sospeso dal PD, ma le sue vicende giudiziarie potrebbero comunque portare a scossoni nel partito, come ammette l'ex procuratore D'Ambrosio. Il Partito Democratico si è sempre contraddistinto per non aver fatto queste cose qui e per aver gestito sempre l'interesse pubblico. E se invece fosse rinviato a giudizio Penati? Leggerei attentamente il rinvio a giudizio e poi deciderei di conseguenza. La scelta di Penati, quando fu fatta, tenuto conto che il Partito Democratico è stato sempre in grave difficoltà a Milano e che Penati invece aveva avuto un grosso successo, evidentemente sperava che Penati potesse risollevare le sorti del Partito Democratico nel nord dell'Italia. Io credo che questa sia stata la scelta di Bersani. Si tappa via, si pensa al mare, ti d'Alessandria si sente il mare. In viaggio sulla Milano-Serravalle per il PD Lombardo, per ora è ancora lontano dunque il Monte Turchino, che una volta scavallato apre a chi arriva dal traffico meneghino l'aria del mare. Siamo su Facebook, pagine gruppo, siamo su Twitter, ci potete rintracciare via mail controluceradio24.it. Tutti i giorni Daniele Biacchesi e la redazione di Radio 24 vi raccontano le storie italiane. La pillola di Italia in Controluce va in onda domani alle 6.30 su Radio 24.